e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua pronti, Deborina. Buongiorno a tutti e anche a te soprattutto. Allora, senti. Sì. Dato vai. Che io ti voglio subito bella scattante. mi vedi un po' lenta stamattina. No, però voglio allenarti anche con un indovinello. Anche perché col caffè ci ho dato dentro, per cui... Brava. Sai che ci sono sempre delle ricerche straordinarie sul caffè, non bisogna esagerare, però. Però, ma io 4 mattina... caffè al giorno, io ne bevo di più. Allora. Vai. Ti do gli indizi. Uh-huh. È una pianta speciale che cresce e fiorisce nelle case, sui balconi, nei giardini degli italiani. Bene. Secondo indizio, è un regalo per festeggiare le mamme, tutte le donne direi, e aiuta la ricerca. Beh, se me la metti così sul piatto d'argento, dai. Come faccio a non indovinare che si tratta dell'azalea della ricerca dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro? Perfetto, allora sai, ho un libro per te. Ho vinto, scritto da una, senza neanche chiamare sì. il numero verde. Guarda, scritto da una brava che io sì. ho avuto modo di conoscere. Sì. Ha scritto Donne di Denari. Ah, vabbè. Così ti prende un po' i fondamentali. Comunque. Non, però se... non parlo di piante perché non è proprio il caso in quel libro là. Però ecco. Coltivi sì. anche tu. Un po' di, come dire, cosa coltivo? Coltivi la pianta consapevolezza dell'educazione sì. finanziaria. Eccetera. Allora, comunque, chiuso. Segnatevi sul calendario, mettete la data, non so, sul vostro smartphone. La data è domenica 8 maggio. In occasione della festa della mamma, l'azalea della ricerca torna in 3.600 piazze in tutta Italia. 20.000 volontari distribuiranno 600.000 coloratissime piantine a fronte di una donazione minima. Per sapere la piazza più vicina, andate sul sito dell'AIRC e regalatevela anche se siete degli uomini. Non aspettate di regalarla alla vostra mamma. Due piante meglio di una. Andiamo. La nostra rassegna stampa di stamattina parte con le notizie di denari, parte con la borsa, buona giornata a Milano, più 1,10%, Piazza Affari reduce da due sedute negative consecutive, i titoli che sono partiti particolarmente in maniera particolarmente vivace, stamattina Monte dei Paschi più 5, però è stata pesantemente bastonata nelle ultime sedute, media 7 più 3, 71, Jux Net-a-Porter più 2,69, Eni in rialzo di oltre 2,5 punti, in negativo abbiamo Mediobanca, Anima Holding e Moncler che perdono in media 0,5 punto. Percentuale. Arrivano molti dati macroeconomici oggi, ma il più importante arriverà domani, è quello sulla disoccupazione americana. Ieri abbiamo avuto intanto un dato preliminare su questo indicatore, quello che viene elaborato dall'agenzia ADP, che ha detto che ad aprile si sono aggiunti all'economia americana 156.000 nuovi posti di lavoro, è però la creazione di posti di lavoro più contenuta dall'aprile del 2013 e questo ha gettato un po' di preoccupazione nuova sullo stato di salute dell'economia statunitense. Allora, no, senti questa, Nicoletta, perché si chiamerà APE, lo strumento che consentirà agli over 63 di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto previsto dalle ultime riforme, accettando naturalmente una riduzione dell'assegno. Questo nuovo meccanismo, lo avete letto stamattina su tutti i giornali, scatterà probabilmente nel 2017, secondo quanto promesso ieri dal Premier Renzi, per cui avremo tutto il tempo di parlarne e di raccontarne la modalità appunto di fruizione, però una cosa mi premeva dirla, perché Presidente Renzi, noi un'APE ce l'avevamo già, è l'attestato di prestazione energetica della casa. Allora voglio dire un po' più di fantasia in più per come senti, dire definire nuovi strumenti pensionistici, non ce io l'abbiamo. Te lo dico sempre, non ci chiedono e sbagliano, ecco, e noi allora, saremo qua. Ma che qua adesso non vorrei che i cittadini si sbagliassero, invece dell'assegno pensionistico a casa si trovassero il perito per misurare l'efficienza energetica dell'abitazione. Beh, comunque quindi è sempre utile. Fate magari bene, è carino. Sentite cuore e denari e quindi noi vi orienteremo tra l'uno e l'altro. Sarebbe anche pronto il decreto correttivo che introdurrà le nuove misure per rendere più trasparenti le procedure di utilizzo dei voucher lavoro. Anche questo tema che abbiamo affrontato tante volte. L'ultima puntata è il 26 aprile a Cuore Denari, in un approfondimento dedicato a questo strumento. Andate a ripescare la trasmissione appunto sul sito di Radio 24. Si pensa ad una procedura secondo la quale almeno un'ora prima della prestazione lavorativa il committente, imprenditore o professionista, dovrà comunicare con un SMS o un'email alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore che si intende appunto assumere temporaneamente, indicando luogo e durata del lavoro accessorio. Sono salate le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione. Noi teniamo sott'occhio queste novità sulla tracciabilità dei voucher. Intanto, ve lo anticipo, di lavoro torniamo a parlare domani per cominciare a scandagliare le opportunità di lavoro estivo. Abolire il bollo auto aumentando un po' le accise non è una cattiva idea, perché in questo modo pagherebbe chi consuma e inquina. Anche questo ha detto ieri il premier Renzi. Il meccanismo era già stato proposto nei mesi scorsi, poi la proposta non si era concretizzata. L'aumento delle accise sarebbe pari a 15 centesimi, ma sparirebbe il bollo. Magari anche questa è una notizia da continuare a monitorare nei prossimi giorni. Scriveteci voi intanto cosa ne pensate, la vostra opinione. Ultima notizia di denari, da questa settimana, questa è una buona notizia finalmente, chiamare, mandare sms, navigare in internet all'estero è diventato molto più economico grazie all'introduzione della nuova legge sulle telecomunicazioni dell'Unione Europea. Da qualche anno è in corso, molti lo sapranno perché noi ne abbiamo parlato ogni anno, la progressiva riduzione delle tariffe di roaming. Ormai siamo a un passo dall'azzeramento, che dovrebbe arrivare nel giugno dell'anno prossimo. Intanto chi viaggerà quest'estate si troverà a pagare un massimo di carico tariffario di 5 centesimi per le chiamate in uscita, 2 centesimi per i messaggi di testo e 5 centesimi per megabyte. E per le pagine di cuore iniziamo con una ricerca che arriva dal Canada. Basta una, ma buona, della serie meglio puntare sulla qualità che sulla quantità. Questa sembra essere la conclusione di uno studio canadese che suggerisce che basta un rapporto sessuale a settimana perché l'erotismo possa essere appagante e l'intesa di coppia possa dirsi soddisfacente. L'importante però è che sia la passione e non l'agenda a ricordarlo, e per tenere accesa la passione ci sono diverse strade. Noi ve ne segnaliamo due. Un filone di ricerche suggerisce di puntare sul cibo e in particolare sulle spezie: peperoncino, utile a potenziare il desiderio sessuale; zafferano, che contiene un'altissima percentuale di carotenoidi che sono un formidabile antiossidante naturale; infine lo zenzero, non solo fa digerire ma è uno stimolante generale ed è un efficace ricostituente contro l'affaticamento e l'astenia. E poi ci sono i suggerimenti naturalmente di Cuore Denari sulla pagina di Salute Uomo. Avete a disposizione tantissimi consigli sul tema. Fino a questo momento è stata una maledetta primavera, ma le temperature dopo il brusco calo dei giorni scorsi sembrano in deciso aumento. Dunque, primi caldi, primo sole, iniziamo a proteggerci. Anche l'abbronzatura nell'era di internet è diventata 2.0 e la tecnologia moderna ci dà una mano. Vi segnaliamo l'app Salvati la pelle della Fondazione Melanoma Onlus, che tra le altre cose suggerisce la durata ideale per l'esposizione, il tipo di protezione da utilizzare e dà anche consigli di prevenzione, perché prendere il meglio del sole è facile, come si dice, se sai come farlo. E a proposito di protezione, un sondaggio dice che tra le parti del corpo che dimentichiamo di proteggere dal sole ci sono le labbra e anche le orecchie. Ma noi oggi vi consigliamo un rimedio per le labbra, soprattutto per chi soffre di herpes. È importante iniziare a nutrire le labbra con un prodotto naturale prima dell'esposizione del sole, e quindi il burro di karité già prima dell'esposizione solare è un valido aiuto. E poi non dimenticate mai di proteggerle poi con uno stick solare indice 50. E per chiudere parliamo di attività sportiva, perché il tempo delle scuse, cari miei, è finito. Uno studio pubblicato su PLOS ONE, realizzato da alcuni ricercatori della McMaster University, sempre ancora del Canada, è arrivato alla conclusione, pensate, che un minuto di attività fisica intensa sarebbe davvero efficace. Della serie massimo risultato nel minor tempo possibile. In attesa che questo studio possa trovare altre conferme, arriva dall'America il cosiddetto interval training. Lo conosci, Deborah? No, voglio saperne tutto. Allora, è una modalità di allenamento che prevede l'alternanza di esercizi e intensità diverse per un massimo di 20 minuti. Secondo me già lo fai tu. Sì, no, secondo me ne abbiamo già parlato e non me lo ricordavo, però adesso... Però adesso oggi che vai in palestra lo fai. È una 20 minuti, è un tempo abbastanza, no, invitante, perché le persone magari che vogliono, no, ottimizzare i risultati possono scegliere questa strada, ma magari durante la pausa pranzo, anche se per forse bruciare le calorie sarebbe meglio, come dicono alcuni medici, iniziare a farla a digiuno al mattino ancora prima di fare colazione. Ma noi ci facciamo dire tutto dal nostro grande esperto, il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno, buongiorno, benvenuto, bentornato. Bentornato finalmente, buongiorno, soprattutto buongiorno, direi. Buongiorno a tutti voi. Allora, è un filone di ricerca che non è nuovo in realtà, insomma, e parte dall'idea che effettivamente la quantità conta meno della qualità anche nell'attività fisica, quindi l'intensità elevata fa risparmiare tempo, però non è così semplice come sembra, cioè l'intensità per essere davvero efficace deve essere davvero elevata e non è che tutti possano stare a intensità molto elevata. In altre parole, sono quegli allenamenti che funzionano molto meglio per chi è già allenato. E quindi va bene pubblicizzarli, però chiaramente non sono per tutti. Io credo che semplicemente anche il classico consiglio alla pausa pranzo di fare una camminata piuttosto veloce, magari semplicemente anche variando il circuito, includendo dove è possibile il fare delle scale o delle piccole salite, è già più che sufficiente per creare una variazione di ritmo senza arrivare alla vera alta intensità che per la maggior parte delle persone è difficile da ottenere e anche, devo dire, un pelo rischiosa, nel senso che l'alta intensità pone un rischio di infortuni molto più alti e anche se non si è certi della propria salute cardiocircolatoria non è che si può stare a un'intensità di sforzo per il cuore così elevata da risultare veramente efficace. Quindi insomma è una bella idea, però in realtà più utile per chi è già allenato che per chi si sta avvicinando adesso all'attività fisica. Grazie dottor Ongaro, anche perché come mi direbbe Debora mi ha dato un assist. Sto andando meglio, un po' meglio con la S. No, provo. Stamattina ho utilizzato l'espressione me l'hai fornita su un piatto d'argento. Bene, perché noi proprio parleremo di cuore, anche di attività fisica salvacuore, ma non solo. Dottor Ongaro, venga a trovarci. Mamma, faccia un po' di sport, di movimento, magari di corsa. Ecco, infatti. Grazie, dottor Ongaro. Noi di corsa andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Poi, cuori all'ascolto, restate. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Allora muoviamoci. Debora, che dici? Mi sono mossa e mi sono rimessa la cuffia. Allora, la nostra fatica sarà ricompensata e probabilmente migliorerà anche il nostro umore, perché l'attività fisica, come il cioccolato, l'amicizia, l'attività sessuale, libera endorfine e, come dice il proverbio, cuor contento ce l'aiuta. Non è un modo di dire, perché la scienza conferma quello che la saggezza popolare in tempi non sospetti aveva già capito: gli ottimisti vivono di più e meglio. Quindi, dopo aver misurato per anni la ricaduta sul sistema cardiovascolare delle emozioni negative, come ad esempio lo stress, l'ansia, la depressione, la ricerca ha deciso di cambiare paradigma e si è concentrata proprio sulle analisi degli effetti delle emozioni positive sul nostro cuore. Allora l'Harvard School di Boston ha condotto una ricerca dalla quale è emerso, pensate, che a parità di tutti i fattori di rischio tipici del cuore che noi ormai conosciamo benissimo, obesità, fumo, sedentarietà, chi è più ottimista ha un rischio dimezzato di andare incontro a un qualsiasi evento cardiovascolare rispetto a quello, insomma, che la vede sempre un pochino, no? Un po' più grigia, quello che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Insomma, come a dire, un pensiero positivo al giorno leva il cardiologo di torno. E allora vi lancerei, se voi siete d'accordo e se mi aiutate, questa proposta. Scriviamoci un pensiero positivo nelle pagine di Cuore Denari, uno al giorno, così lo condividiamo. Suggeriteceli anche voi, li scriveremo anche noi e così ci solleviamo, no? L'umore e il cuore. Ma chiediamo conferma se tutto questo potrebbe funzionare alla nostra esperta, la dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, ottimismo amico del cuore? Beh, direi abbastanza, sicuramente sì, e non solo perché sappiamo che è vero il contrario, ovvero che la depressione è ferocemente nemica del cuore, ma anche perché se è vero che l'attività fisica fa bene al cuore e anche all'umore, è vero anche che quando noi per contro abbiamo delle emozioni positive siamo anche più portati a essere più attivi, quindi c'è una specie di circolo vizioso, di circolo virtuoso tra essere attivi, essere ottimisti e essere di buon umore, mentre quando siamo depressi tendiamo a rintanarci sul divano se possiamo e guardare la TV. Inoltre sappiamo che emozioni forti negative possono provocare un danno acuto al cuore. Non quando si diceva, no? Gli è venuto il crepacuore, ha avuto, sì, un dolore così grande, adesso è stato dimostrato, vero, dottoressa? Sì, può succedere per un lutto, anche per una perdita economica imprevista o per un tradimento. Vedi come cuore denari la dottoressa, sì, Frigerio ha messo subito anche i denari, che in effetti è una grande preoccupazione. Certo che quelli che tornano a casa dalle vacanze trovano la casa svaligiata, per esempio. E anche per esempio oppure essere a conoscenza di una malattia grave occorsa a un familiare vicino. Tutte queste cose possono determinare un danno acuto del cuore che il più delle volte fortunatamente è reversibile, cioè torna indietro, però nel momento in cui si determina può essere molto pericoloso. E poi un'altra cosa interessante è che l'atteggiamento positivo, ottimista, una vita anche di relazione soddisfacente o comunque impegnata, oltre che l'attività fisica, aiutano anche quelli che già sono malati di cuore a vivere meglio e più a lungo. E questo non solo perché c'è qualcuno che si occupa di loro o perché se comunque sono in grado di fare un po' di movimento vuol dire che stanno meglio di quelli che certo. sono costretti a stare fermi, ma anche proprio per l'affettività, la relazione ha un ruolo motivazionale. Per esempio avere un animale domestico di cui prendersi cura è un'altra cosa che può aiutare anche il cardiopatico a vivere più a lungo. Dottoressa Frigerio, intanto ricordiamo il nostro numero verde se volete intervenire per raccontarci che cosa pesa sul vostro cuore, che cosa lo fa star bene, 800 24 00 24. Ma abbiamo chiuso la nostra rassegna parlando di attività fisica, abbiamo commentato questo studio che promuove il cosiddetto interval training, questa modalità di allenamento che prevede l'alternanza di esercizi a intensità diverse per un massimo di 20 minuti, no? Ma dottoressa Frigerio, il suo collega dottor Ongaro ha detto beh, è meglio no, muoversi ma senza affaticarci troppo, perché bisogna sempre fare un po' i conti con il nostro cuore. Questo lo diciamo sempre anche agli sportivi amatoriali e anche a chi decide di iniziare finalmente a praticare un'attività sportiva o a muoversi un po', perché l'attività fisica fa bene al cuore, ce lo sentiamo ripetere sempre come un mantra. Ma esattamente, dottoressa Frigerio, che cosa fa e a quali condizioni dobbiamo farla? L'attività fisica fa bene a diversi livelli se è un'attività appunto allenante regolare, soprattutto ci sono effetti fisici sul tono muscolare, sulla vasodilatazione, quindi il cuore fa meno fatica a spingere il sangue in avanti perché la periferia, come noi la chiamiamo, è più pronta a riceverla. Il cuore riesce a compiere lo stesso lavoro risparmiando energia, risparmiando battiti. Le coronarie, cioè le arterie che riforniscono di ossigeno il nostro cuore, si dilatano e anche sviluppano meglio i circoli collaterali, cioè quelle specie di bypass naturali che si formano se noi abbiamo qualche restringimento qua e là. In sostanza il cuore impara a lavorare di più spendendo meno energia. Ma poi c'è un'altra cosa, che se noi siamo abituati ad allenarci e a fare attività fisica con regolarità, conosciamo meglio noi stessi e quindi impariamo anche a misurare la nostra capacità, il nostro limite, e quindi riusciamo a fare più attività, più cose che ci piace fare o che dobbiamo fare, a parità anche di funzione o di disfunzione cardiaca. E questo è un effetto, diciamo, è come un effetto collaterale favorevole dell'attività fisica sicuramente. E poi io sono molto d'accordo col professore che ha detto prima che l'interval training è una cosa utile per chi ha poco tempo ma è già abbastanza allenato, ed è invece una modalità di allenamento che non è consigliabile al sedentario che comincia il movimento o che fa il classico buon proposito e dice beh da domani e poi, mi muoverò un po' ecco, di più. Da lunedì, no? E poi conta molto la gradualità invece. Comunque, dedichiamo delle attenzioni al nostro cuore, anche la semplice passeggiatina, se ripetuta con costanza, può essere utile. Certo. E allora l'invito di oggi, ricordatevi di mandarci il messaggio positivo, perché adesso abbiamo anche la conferma della scienza. Ah, sì. E quindi no, ogni giorno cerchiamo anche nel cielo nero di trovare il pezzettino di azzurro. Oggi vogliamo chiedervi: quali attenzioni dedicate al vostro cuore? Quanto lo conoscete? Quali segnali tra quelli che vi manda riuscite a decifrare? Quali invece non riuscite a interpretare? Raccontatecelo al nostro numero verde e scriveteci. Intanto c'è una buona notizia per tutti i cuori sintonizzati con noi, che da questo mese potranno contare sulla disponibilità dei cardiologi del Centro De Gasperis di Niguarda. Ci incontreremo una volta al mese, dottoressa Frigerio, per parlare di cuore. Sì. Ne faremo sentire di tutti i colori, i nostri, ecco, i nostri ascoltatori potranno intervenire in diretta o animare con i loro interventi, con le loro domande, i dubbi, i racconti, la pagina I colori del cuore che abbiamo preparato sul nostro sito, naturalmente una pagina in cui troverete i consigli degli esperti, uno spazio per le vostre domande, segnaleremo iniziative, curiosità. Dottoressa Frigerio, a proposito di movimento, è pronta a questa avventura? Perché noi puntiamo molto sulla prevenzione, perché la prevenzione può davvero cambiare la nostra vita e anche un po' la salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tanto per diventare un po' una sì, donna infatti. Anche un po' di denari. Brava. Un po' sì, adesso diciamo che la prevenzione in realtà dovrebbe essere presa come un concetto anche un po' più vasto, volendo la prevenzione può cominciare già anche da come progettiamo le nostre città. I quartieri senza automobili e senza barriere architettoniche, per esempio, sono degli ottimi posti per svolgere attività fisica e vivere in sicurezza, sia chi vuole andare a piedi, sia chi vuole andare in bicicletta e sia chi deve andare su una sedia a rotelle, per esempio. La prevenzione non è fare tanti esami, quello è screening o diagnosi precoce. La prevenzione è prima di tutto uno stile di vita e l'assunzione di una responsabilità nei confronti della propria salute e anche dell'impiego di risorse comuni. E dato che la prevenzione parte dall'informazione, continuate a stare con noi. Dopo il GR, insieme ancora alla dottoressa Frigerio, parleremo anche di piante amiche del cuore. A tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Verde, ancora una volta, verde, è la chiave di volta, verde, coscienza sepolta. E siamo tornati insieme in questa puntata, parliamo di cuore e di denari, come sempre, sì. Ma il cuore verde dei dollaroni. Il verde dei dollaroni, e abbiamo anticipato questa iniziativa del Colori del Cuore, che facciamo in collaborazione naturalmente con i cardiologi del De Gasperis, dell'ospedale Niguarda di Milano, per questa puntata. Il nostro colore è verde. Dottoressa Frigerio in linea con noi per rispondere alle vostre domande, per darvi indicazioni. Vi racconteremo perché abbiamo dato questo colore, non l'abbiamo scelto a caso, ma dottoressa Frigerio, vorrei commentare con lei i dati dell'Osserva Salute, perché parlando di prevenzione non possiamo evitare di citarli, che hanno mostrato una, sia pur lieve, riduzione dell'aspettativa di vita degli italiani. Uno dei commenti più frequenti a questi dati è che l'aspettativa di vita si è ridotta perché si fa meno prevenzione. Lei è d'accordo? Solamente in parte, anche perché bisogna vedere a quale prevenzione e a quale periodo ci riferiamo. Dobbiamo tenere presente che l'aspettativa di vita è qualcosa che, se cambia, se quello che abbiamo osservato recentemente non è una casualità statistica che verrà contraddetta l'anno 21, è qualcosa che cambia per effetto di una complessità di fattori che operano nel corso di anni, non quelli dell'anno scorso. E quello che sicuramente questi dati ci dicono è che ancora le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte, interessando circa il 40% dei decessi, ed ecco perché anche con il supporto della nostra Fondazione De Gasperis abbiamo deciso di fare questa iniziativa di comunicazione, perché la partecipazione, quello che viene chiamato il patient empowerment, oltre che la prevenzione, cioè la consapevolezza delle persone, aiuta ad affrontare meglio le situazioni. Ed è sicuramente vero che le ristrettezze economiche non hanno mai aumentato la salute di nessuno, certo. Questo ce lo dobbiamo dire. Ciò detto, il servizio sanitario italiano è ancora abbastanza inclusivo, direi. Mi sembra improbabile che possa accadere che un cittadino muore perché non ha i soldi per comprare l'aspirina, come mi è capitato di sentir dire in questi giorni, mentre forse abusiamo ancora di farmaci anche quando potremmo farne a meno. Io resto stupita quando vedo pubblicizzare in TV allegramente analgesici da banco in confezioni da 60 compresse, io credo impiego 5 anni abbondanti a farle fuori. E se le consumiamo rapidamente, i nostri reni e il nostro stomaco possono avere qualche cosa da ridire. E un altro punto, noi in Italia potremmo risparmiare molto di più semplicemente fidandoci, come i nostri vicini dei paesi europei a noi prossimi, dei farmaci cosiddetti generici, che dovremmo chiamare equivalenti, che già è un nome un po' più chic, al posto invece di insistere con i farmaci di marca. Dottoressa, ecco, su questo però noi puntiamo sulla prevenzione, l'iniziativa che a cui abbiamo aderito mi sembra che vada proprio in questa direzione, informazione, il consiglio degli esperti, il confronto. Naturalmente abbiamo visto che al nostro cuore piacciono anche la prevenzione, non significa togliere, a volte significa aggiungere, non significa rinuncia, ma può essere anche appagamento, integrazione, dottoressa Frigerio, perché non vogliamo mettere a stecchetto nessuno, né privare nessuno del piacere, delle cose belle che la vita ci mette a disposizione. Questo sicuramente, questo è vero, anche perché curarci ci serve a vivere, non dobbiamo fare l'inverso, vivere per curarci. La salute ci serve per fare delle cose, per essere delle persone soddisfatte e realizzate, quindi magari anche in grado di svolgere le attività che ci appassionano, e oltre che quelle che ci tocca fare o che vogliamo fare nella nostra vita di relazione. Ed è anche per questo che sul punto del cuore verde abbiamo puntato su una comunicazione esterna all'ospedale per questa iniziativa un po'. Cuore verde per tante ragioni, verde sì. Perché è il colore della primavera, della natura. Certo, della natura, delle piante, verde anche ci richiama l'ambiente, quindi diciamo di cominciare a non inquinarci da soli col fumo o usando troppo l'automobile, ma verde come la natura e tenere presente che la natura ci offre dei rimedi o degli strumenti che aiutano la prevenzione, perché al giorno d'oggi nessuno di noi dovrebbe farsi un decotto medicinale serio per le condizioni cardiache, ma dovrebbe fidarsi dei farmaci che gli vengono dati in farmacia, perché certamente rischia molto meno. Esiste un farmaco che si usa da più di 200 anni, che è la digitale. Ovviamente adesso abbiamo anche farmaci più potenti e forse più efficaci. Ma però è stata proprio la digitale, che è una pianta proprio che è amica del cuore, da più di 200 anni, no, se ne sfruttano le proprietà terapeutiche. È molto interessante andare a vedere il volume, il primo volume che è stato pubblicato, con un metodo, con un approccio direi proprio classico sperimentale, una descrizione di casistica di oltre 100 pazienti da parte di un medico scozzese che ha pubblicato questo volume nel 1785. Ed è anche divertente per me, che sono un medico, notare che il medico è stato indotto a capire il valore terapeutico di questa pianta dopo che la paziente che lui aveva osservato si era salvata grazie al decotto di un erborista. Bene, santi erboristi. Maurizio, buongiorno da Brescia. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto e buongiorno a lei. Ci racconti. Ascolti, io volevo chiedere alla dottoressa il perché. Io faccio allenamento, vado in bicicletta costante, due o tre volte a settimana, con altri miei colleghi, pari età, pari sforzo, pari tutto, io ho sempre un 20 battiti in più a confronto di altri che ho vicino. Perché facendo attività insieme poi ci si confronta, ci si misura anche i battiti. Quanti ne hai tu? Io di più, sì. Io di meno. Come la questione del cronometro ieri affrontata con Franz e Giovanni, sì. Dottoressa Frigerio, una risposta per Maurizio e per tutti i cuori sportivi all'ascolto. Beh, la risposta è che non siamo tutti uguali e che dobbiamo guardare molto noi stessi più che il nostro vicino. Il nostro vicino ci serve come benchmark, diciamo, se noi ci rendiamo conto che tutte le persone che noi crediamo noi pari riescono a fare molta più attività di quella che facciamo noi ci stanchiamo molto prima. Allora sì, quello può essere un campanello d'allarme. Ma per il resto non siamo tutti uguali, e eventualmente si può vedere come si comporta appunto l'attività sotto la frequenza sotto sforzo, anche che modo ha di incrementare. Se parte già a riposo un po' più alto, è normale che arrivi un po' più alto. Ci ricorda i numeri della frequenza? La frequenza normale a riposo potrebbe essere diciamo tra i 50 e i 70, poi c'è un po' più bassa, è meglio 60 diciamo che non 75 già a riposo. E la frequenza di allenamento, no, anche quella non è un numero fisso, ma un numero che varia in rapporto alla nostra età, in rapporto allo sport che vogliamo fare e al nostro stato di salute, al nostro livello di allenamento. Diciamo che viene calcolata a partire appunto mettendo assieme la frequenza a riposo, l'età, il sesso e anche il livello di sforzo che vogliamo fare. La frequenza allenante è quella che ci può essere consigliato di mantenere quando facciamo un'attività di tipo regolare, di tipo aerobico. Dottoressa Frigerio, due informazioni prima di salutarla e di ringraziarla, e poi ci trasferiamo naturalmente nella pagina che abbiamo dedicato, il cuore a colori. Questa, siamo nel cuore della settimana del scompenso cardiaco, una malattia che può manifestarsi anche con segnali che non sempre siamo in grado di associare al cuore, perché il cuore è un amico, è diretto, ma a volte dà messaggi prendendolo un po' alla lontana, un po' subdolo. Quali sono i segnali che dobbiamo riconoscere? Quelli più tipici: irregolarità del battito, accelerazione impropria del battito, e poi mancanza di respiro, respiro corto, e poi senso di stanchezza per fare delle cose che prima facevamo invece in scioltezza. Soprattutto se abbiamo la pressione alta, se abbiamo una storia in famiglia di persone con lo scompenso, se abbiamo avuto un infarto o un intervento di cardiochirurgia. Poi ci sono il gonfiore delle gambe, il gonfiore dei piedi, non è il caldo che avanza ma magari un problema di scompenso, e anche i disturbi di natura digestiva, sentirsi sazi dopo aver mangiato poco o sentirsi il fegato che si gonfia, può non essere un problema appunto di fegato o di stomaco, ma può essere un problema di cuore. Nei bambini per esempio lo scompenso si esprime con l'inappetenza e con la scarsa voglia di mangiare. Allora, se vi siete riconosciuti, noi vi invitiamo a mandarci una mail, a scriverci, perché lo staff, l'equipe dei nostri cardiologi, ormai mi allargo, dottoressa Frigeri, ormai tutti nostri, è pronta a rispondervi, a darvi le indicazioni. A proposito di verde, voi sarete a Orticolo, un appuntamento milanese che però richiama tutti i grandi appassionati di giardini e giardinaggio. Perché riteniamo appunto che sia importante vivere con la propria salute e con la propria malattia, continuando a coltivare le proprie passioni. Io devo dire che sono una giardinista dilettante, e ho trovato anche per esempio su dei siti cardiologici inglesi delle indicazioni molto interessanti rispetto alla prosecuzione della propria attività di giardiniere anche nei malati con scompenso di cuore o altre disabilità. E avete preparato un decalogo, dottoressa Frigerio, che noi naturalmente linkiamo, per cui per tutti i giardinieri provetti o meno provetti, per continuare a prendersi cura del giardino, che è un po' come coltivare la propria salute. Noi vi rimandiamo alle nostre pagine, ringraziamo la dottoressa Frigerio, perché adesso passiamo, il colore rimane sempre quello. Si che dice verde. Anche giardinetto degli investimenti, eh? Brava, e noi ci occupiamo di un altro tipo di giardinetto. Grazie. Dottoressa Frigerio, grazie saluti, di cuore. Grazie. Buona a voi, giornata. A presto. A presto. Allora, niente, nel mio giardinetto degli investimenti io ci volevo mettere anche le mie ultime due banconote da 500 euro, però insomma Mario Draghi ha deciso di sequestrarmele perché ha paura che possa usarle per qualche fine improprio, non tanto legale, l'abbiamo detto ieri. Tu dalle a me, guarda, ecco. Te le conservo io. Purtroppo sono già andata a cambiarle, adesso in portafoglio solo qualche taglio più piccolo da 5 e 10 euro. Comunque, insomma, se avete ancora i 500 euro in tasca, datele per a noi. Chi li ha visti, perché qua poi c'è tutta questa cosa folcloristica di chi dice ma chi mai l'ha toccata, chi mai l'ha avuta in mano, in realtà c'è tempo per cambiarle fino al 2018, anno da cui saranno poi fuori corso. L'abbiamo detto ieri, l'abbiamo ribadito oggi, quindi non andate in giro. Esatto. Allora, detto questo, 500, 5, 10, 20, basta pochino per volta per mettere da parte qualcosa. L'unica cosa che dobbiamo fare è dare tempo al nostro denaro. Chissà se in questa nostra rubrica del giovedì possiamo dare qualche suggerimento valido a questa mamma preoccupata che ci scrive. Non ho ancora capito come fare un investimento per mio figlio, 17 anni, che si diverte a giocare virtualmente in borsa con un amico su qualche applicazione e quindi crede sia così semplice. Lui ha un libretto al portatore con un po' di risparmi e poi riesce a guadagnare qualcosa con mance e lavoretti. Io sono già preoccupata per quando andrà all'università. Ma a chi devo rivolgermi? Alla mia cassa rurale? All'assicurazione? Intanto, nella completa confusione, il tempo passa. Così abbiamo deciso di partire da questa mail di questa mamma che si chiama Manuela per la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Abbiamo un po' scombinato i piani a Lorenzo Alfieri, JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di fare il nostro consueto giro nel mondo e analizzare i fatti che movimentano i mercati finanziari, io vorrei commentare con lei questa mail, che è una delle tante che ci arrivano e che hanno sempre un po' lo stesso sapore, dottore Alfieri, perché ci sono molte famiglie che si fanno carico delle esigenze di risparmio dei propri figli, sia se questi sono molto giovani, ma qualche volta anche se sono un po' più grandicelli. Allora, questa mail, una volta che io ieri l'ho letta, mi ha così suggerito due questioni da affrontare in sua compagnia. Intanto vorrei immediatamente raccomandare alla nostra mamma preoccupata, ma anche a tutti coloro che sono all'ascolto, che per una volta per tutte deve essere cancellato dalla testa il concetto del giocare in borsa. Il figlio di Manuela lo fa con questa applicazione con internet, probabilmente utilizzando lo smartphone, però anche Manuela utilizza giocare in borsa e crede che sia facile quindi guadagnare con questa modalità. Vogliamo ribadire una volta per tutti che in borsa non si gioca? No, assolutamente. Il concetto poi di investimento non ha nulla a che vedere col gioco. L'investimento significa, a parte ovviamente inviare, utilizzare i propri risparmi per il futuro, significa proprio che alla base di delle opzioni che possono essere scelte c'è però una valutazione strategica molto importante, il nostro futuro, i nostri piani, e ovviamente il gioco non ha nulla a che vedere con gli investimenti. Infatti, di lungo termine, approcciare il concetto di investimento con questa metodologia del gioco significa, a me, ovviamente, probabilmente perdere. Ci sono poi delle società di investimento specializzate nel trading online che organizzano, ce n'è una molto importante, le Universiadi, quindi in realtà poi fanno sperimentare magari studenti sul territorio la modalità di investire in borsa, ma il termine giocare non viene utilizzato, e quindi insomma fate attenzione. Seconda parte invece della riflessione della nostra mamma preoccupata. Secondo lei cosa deve fare per suo figlio? Ma innanzitutto partirei da una osservazione molto interessante, che questa madre si pone già delle problematiche di pianificazione. Il fatto di guardare a come investire oggi per il futuro del proprio figlio, università, libretto al portatore, sono dei concetti molto, molto interessanti. Quindi è molto importante quindi saper pianificare. Nel caso specifico, direi un suggerimento sicuro è quello: non fare il cosiddetto fai da te, soprattutto in mercati finanziari così complessi. Non pensare di poter risolvere i propri problemi, la propria pianificazione attraverso degli investimenti scelti singolarmente. Bisogna rivolgersi ovviamente ai professionisti. Manuela può fare una chiacchierata con due interlocutori di entrambi i soggetti citati, senza fretta di prendere alcuna decisione, dottor Alfieri, dopodiché fare una valutazione. Sì, sicuramente è assolutamente necessario, magari alcune riflessioni. Certo che se il mio interlocutore mi propone di investire tutto in un titolo, ecco, attenzione. Se ti fa pressione per vendere qualcosa, farti sottoscrivere subito qualcosa, altro segnale. Certo, mettere in conto appunto la diversificazione. Secondo fattore, non farsi attrarre da tassi di rendimento stranamente esagerati rispetto a quelli che normalmente vengono ottenuti, ad esempio investendo in titoli di Stato. Anche questo evidentemente potrebbe nascondere investimenti un po' troppo rischiosi per le proprie necessità. E provi, direi, ovviamente un'altra cosa: massima trasparenza sui costi. Allora, intanto avete capito che oggi è l'appuntamento del giovedì, abbiamo mandato la cicletta a Investire Informati, per cui adesso cominceremo anche a fare un giro virtuale con il nostro mappamondo finanziario per capire un po' quali sono le dinamiche che in questo momento condizionano l'andamento dei mercati finanziari. Se avete qualche domanda, il microfono è sempre a vostra disposizione, 800 24 00 24. Dottor Alfieri, vorrei subito scattare una fotografia sulla borsa, sul mercato azionario. È tornato il nervosismo da qualche giorno. Complessivamente, che sta succedendo? Ma rimangono sul tappeto alcuni elementi di perplessità che erano presenti ormai da tempo, già dall'inizio dell'anno. ci stiamo avvicinando al referendum sulla cosiddetta Brexit, cioè la permanenza dell'Inghilterra, del UK, all'interno di un consesso del europeo più o meno ampio. Abbiamo ovviamente delle perplessità sulla crescita delle economie più importanti, Stati Uniti, Europa, ma anche ad esempio il gigante cinese. Abbiamo un rallentamento generalizzato degli utili aziendali, abbiamo una forte volatilità che adesso è più contenuta negli ultime settimane sul dollaro, ma soprattutto sulle materie prime, primo fra tutto il petrolio. Tutti questi elementi ovviamente comunque riemergono ogni tanto, e in questa fase c'è ovviamente maggiore sensibilità da parte degli investitori a questi temi. Oggi i listini europei sono in rialzo, ma sono reduci da una serie di giornate piuttosto difficili, e guarda caso sono state proprio le prime quattro giornate di maggio. Si sta avverando la consueta profezia stagionale: sell in May and go away, vendi a maggio e scappa? Ma direi che da queste considerazioni, cioè, bisogna ovviamente trarne delle valutazioni relative. Ad esempio, vi ricordo che sempre si dice che a gennaio sia il momento più interessante per entrare sui mercati finanziari. Abbiamo visto quest'anno a gennaio sì. Cosa è successo, del tutto inaspettato. Abbiamo avuto una correzione che probabilmente storicamente pochissime altre volte è stata verificata. Direi che il detto appunto di vendere a maggio è assolutamente relativo. In questa fase direi che sono altri gli elementi che stanno condizionando le scelte degli investitori. Però intanto, per chi non sa il motivo per cui in finanza in primavera si usi questa espressione, glielo raccontiamo noi. Summer days, I fell in May. Sell in May and go away, altrimenti detto vendi in maggio e scappa. Un motto ben conosciuto dagli operatori di borsa di ogni latitudine, che suggerisce agli investitori di cedere tutto o quasi il portafoglio in azioni a maggio e di ricomprare solo dopo l'estate. In borsa, insomma, le vacanze si fanno a giugno e per godersele a cuor leggero sarebbe meglio vendere prima dell'arrivo di questo mese. Effettivamente, soltanto in tre degli ultimi 15 anni, nel 2000, 2005 e 2012, l'indice FTSE MIB ha guadagnato in giugno. Ma dietro questa espressione ci sono anche altre spiegazioni, a cominciare dal fatto che a maggio la maggior parte delle società stacca il dividendo, un momento abitualmente seguito da una penalizzazione del titolo. Il tutto, naturalmente, va osservato alla luce di un contesto più ampio e della tendenza del mercato nell'anno in corso. Nelle fasi rialziste, quando si ha un mercato cosiddetto toro, la borsa tende a toccare i massimi nella prima e nell'ultima parte dell'anno, penalizzando l'inizio dell'estate. Nelle fasi orso, al contrario, con un mercato in trend ribassista, il motto invece potrebbe essere smentito. E allora speriamo di aver chiarito, anzi di aver esaudito le vostre curiosità su questi concetti finanziari un po' folcloristici che qualche volta si usano. Intanto noi siamo arrivati piano piano al momento di raccontare la seduta di borsa odierna. Se volete chiacchierare con noi di mercati, investimenti e quant'altro, il numero verde che potete utilizzare sempre lo stesso è l'800 24 0024. Direi, Nicoletta, di andare. Certo. Accendi sto microfono, fai un po' di movimento. No, sai perché? Mi ero... Cosa ha detto? Mercato toro. Che sì, vedi? Che è il contrario dell'orso. Certo. Quando vanno molto male le cose, il e bull, non c'entra, no? Niente con, con il segno zodiacale, che non però mi niente, sembra... Ma ti ricordi però il toro di Wall Street? Ma certo che avevamo sì, avevamo anche no? detto lo scultore italiano che ha fatto avevamo l'opera. Fatto anche il domandone. Esatto. A proposito, dopo ce n'è un altro di domandone per gli ascoltatori, quindi state allerta, tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io e provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Q. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Una canzone molto divertente, va molto di moda in palestra questa, dove si parla anche di soldi, questa cantante che non ha bisogno di soldi, vuole divertirsi, si rifà le unghie, è un po' una cantante cuore e denaro. Assolutamente, insomma, molto divertente. Sì, anche di unghie abbiamo parlato e proprio, quindi, insomma, di recente. Una colonna sonora un po' divertente per parlare anche di mercati finanziari, e oggi con noi torna ad Investire Informati Lorenzo Alfieri, JP Morgan Asset Management. Abbiamo fatto un punto della situazione prima della nostra pausa su quello che storicamente sembra accadere in maggio, cioè questo detto sell in May and go away. Vi abbiamo raccontato anche il motivo per cui c'è questa espressione in finanza. E dottor Alfieri, abbiamo parlato anche del fatto dei dividendi che pesano in questo mese. Fra un po', attenzione che questo argomento sarà oggetto anche del nostro domandone per i nostri ascoltatori, e un po' di tutto il nervosismo che sta caratterizzando di nuovo da qualche settimana a questa parte l'andamento dei mercati. Abbiamo parlato delle ragioni per cui c'è stata qualche marcia indietro, di nuovo per alcuni listini, oggi un recupero, però tutto sommato le condizioni di incertezza ancora prevalgono. Ma secondo lei che notizie vogliono avere i mercati per riprendere ad avere un andamento più stabile e meno volatile? Che cosa vogliono certezza? Ma sicuramente uno degli argomenti principali è un po' il tema della crescita che rimane presente negli Stati Uniti, ma ovviamente con tassi molto modesti. Crescita che c'è in Europa, ma sappiamo che è ben lontana dai livelli di qualche anno fa, anche perché stiamo uscendo da una crisi molto lunga e ci si aspettava ovviamente tassi di crescita molto più, direi, virtuosi, e anche crescita in Oriente, nel gigante asiatico, cioè in Cina, dove ovviamente c'è in atto un rallentamento da qualche tempo, ormai da qualche semestre. Quindi dati più chiari, più trasparenti, che ovviamente permettono alle banche centrali, soprattutto alla Fed, di dare un'indicazione più chiara su dove su come si muoveranno i tassi negli Stati Uniti. Direi che quindi questi sono i fattori più importanti, più rilevanti di medio termine. A fianco a questi ovviamente ce ne sono altri argomenti temporanei, come il referendum sulla Brexit che dicevo prima, che ovviamente creano volatilità nel brevissimo termine. E quindi aspettiamoci ancora, magari proprio anche per questa ragione, qualche movimento in più prossimamente. Sell in May and go away, continua ad insistere su questo concetto, perché magari, dottor Alfieri, per chi ha la tentazione di fare questa operazione drastica, secondo lei non varrebbe invece la pena dedicare questo momento dell'anno prima dell'estate, anche proprio per goderci le ferie in maniera serena, fare un check-up del portafoglio per valutare cosa fare, appunto, e quindi, come diceva, andare in vacanza tranquilli nella consapevolezza che con il proprio consulente si sono riconsiderati o mantenuti gli obiettivi prefissati, e quindi quello che potrà accadere sul mercato non turberà più di tanto? Sicuramente è adatto ovviamente un periodo di questo genere, proprio alla luce di quello che dicevo prima. Ci sono stati e ci sono una serie di eventi che stanno creando una certa volatilità. Bisogna forse verificare se il portafoglio che si è costruito risponde ovviamente anche alle nostre esigenze, ma soprattutto al nostro temperamento di fronte alla volatilità e ai rischi. Dall'altra parte, guardare sempre ovviamente in termini prospettici se non è il caso eventualmente di variare in base ovviamente a quelle che sono magari delle nuove pianificazioni, degli nuovi elementi che possono nascere. Nuovi obiettivi che magari si sono aggiunti a quelli della famiglia, quindi vanno riconsiderate proprio le strategie su come risparmiare. Assolutamente, perché alla base, comunque, come dicevamo, importante non è stravolgere il proprio portafoglio alla presenza di fenomeni di alta volatilità, perché questo esattamente va contro loro che si può fare, e va contro ovviamente una corretta pianificazione finanziaria. Anche se ci rendiamo conto che proprio in queste fasi qua particolarmente difficili arginare le emotività, chissà che tipo di piante bisogna utilizzare per tranquillizzarsi, Nicoletta, in fasi come quelle che abbiamo più volte raccontato. Intanto ancora continuo a sollecitare appunto i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, per commentare con noi questi argomenti, e c'è naturalmente chi continua ad insistere sul fatto che, come fa un ascoltatore, voi di Cuore Denari dovete essere onesti e dire che il piccolo risparmiatore che investe in borsa, alla fine utilizzo la stessa espressione che uso chiusa, il nostro ascoltatore alla fine la prende sempre in quel posto. Io dico che succede a chi investe in un unico titolo, a chi fa l'investimento nel momento sbagliato, come per esempio quando si è reso conto che la borsa è cresciuta molto e quindi è chiaro che la correzione è più probabile di un altro rialzo, no, dottor Alfieri? Oppure quando si fa un investimento perché lo suggerisce l'amico e quando appunto non si ha un giardinetto di investimenti ben diversificato, per cui è chiaro che ci sono tante ragioni per cui effettivamente la borsa può tradire, ma ce ne sono anche tante altre per cui nel lungo termine la borsa può premiare. Beh, assolutamente, se guardiamo poi alle performance storiche di lungo termine, sto parlando ovviamente di 10 anni e oltre, vediamo ad esempio che un portafoglio bilanciato classico, tradizionale, senza dover includere prodotti particolarmente sofisticati, ha avuto appunto nel medio-lungo termine sicuramente risultati positivi che hanno superato ampiamente ovviamente le fasi di maggiore volatilità e soprattutto di forte correzioni. Come correttamente è stato detto, il problema è non dietro ai trend del momento e non sperare di approcciare appunto l'investimento finanziario come abbiamo detto all'inizio, come un gioco, ma come ovviamente una pianificazione molto chiara. Ricordare quello che è successo nel periodo della new economy italiana, quando ovviamente tutte le occasioni di investimento nella tecnologia erano colte, erano ricercatissime, e poi naturalmente gran parte di queste storie si sono rivelate fallimentari. Pertanto di quelle storie là nate in quel momento ce ne sono rimaste pochissime, per cui siccome abbiamo già una storia recente che ci racconta di sfortune in borsa, appunto evitiamo di fare gli stessi errori. Intanto Massimo scrive: la borsa rovina la gente perché si può giocare da casa e si gioca molto denaro. Massimo si è perso la prima parte della trasmissione, dove noi abbiamo ribadito di nuovo che il termine giocare associato alla borsa non è un esercizio utile, corretto. Ecco, per cui appunto in borsa si investe con metodo, con grande attenzione, con il consiglio di persone e professionisti esperti. Non ci si gioca con la borsa perché significa giocare col proprio denaro. Ecco, non si gioca né con i denari né con la propria salute. Brava Nicoletta. Vedi, ho fatto un po' la maestrina. Evviva, hai dai. Fatto bene, hai fatto bene. Senti, allora, a proposito, io invece faccio il Mac buongiorno della situazione. Dai, quizzettone. Allora, nella nostra scheda che abbiamo mandato in onda prima, che spiegava perché si dice sell in May and go away, avete sentito appunto che parlavamo anche dell'effetto che ha lo stacco dei dividendi delle società quotate, quindi le cedole sono l'oggetto del nostro domandone di oggi. Adesso vi faccio fare una ricerca veramente che vi farà impazzire un po'. In che data, in questo mese, le società del FTSE MIB, che è il principale paniere di Piazza Affari, staccano il dividendo? E se poi mi dite anche quante società lo faranno in quel giorno, regalo. A casa vostra, doppio a libro. Il libro. Doppio libro. 800 24 00 24, il numero verde per rispondere se volete, e noi abbiamo qua l'indicazione, speriamo giusta, io me le sono contate tutte ieri, sono andata a vedere la data, per cui spero di aver fatto anche il censimento corretto. Dottor Alfieri, allora, fattori di incertezza, abbiamo già ragionato sulla Brexit, referendum del 23 giugno, abbiamo ragionato un po' della politica monetaria, dell'atteggiamento della Banca Centrale Americana, che non alza i tassi nonostante l'anno scorso avessero detto nel 2016 faremo almeno 4 rialzi, invece tutto fermo, la Banca Centrale Europea che invece deve tenere proprio tutto assolutamente immobile, anzi forse continuare ad allentare dal punto di vista monetario la politica da quest'altra parte appunto dell'oceano. C'è poi la Cina, dicevamo ieri c'è stata questa operazione che è passata un pochino sotto traccia secondo me, perché c'è stata un'altra forte svalutazione dello yuan contro il dollaro decisa proprio dalla banca centrale cinese, che ha il timore che continui la massiccia fuga di capitali da quell'area. Allora, la stessa notizia ad agosto dell'anno scorso ha mandato in tilt completamente i mercati. Ieri nessuna enfasi, ma come fa il risparmiatore ad orientarsi di fronte a una notizia dello stesso tipo nei confronti del quale appunto poi il mercato ha un atteggiamento completamente diverso? Diciamo che il contesto è chiaramente completamente diverso rispetto a quello di un anno fa. Un anno fa fu una manovra assolutamente improvvisa e anche ovviamente non gestita nel modo adeguato ed appropriato. Infatti abbiamo visto che i mercati finanziari hanno avuto una reazione estremamente forte proprio per l'incertezza delle motivazioni che stavano dietro a questa prima fase di correzione della valuta cinese soprattutto rispetto al dollaro. Diciamo che di acqua sotto i ponti ne è passata. Sono state comprese maggiormente ovviamente gli obiettivi delle autorità cinesi e della banca centrale cinese. Soprattutto direi che sono state poste in essere tutta una serie di azioni, soprattutto sui mercati finanziari asiatici, cinesi nella fattispecie, per cui in questo momento ovviamente la reazione è stata estremamente più composta. C'è da dire poi che i dati che sono ora a disposizione degli investitori sul gigante asiatico sono migliori, direi sensibilmente migliori in termini prospettici rispetto a quello di un anno fa. Sicuramente avremo un paese, la Cina, che non riuscirà più a crescere a tassi prossimi al 10% come è avvenuto fino a poco tempo fa. Solo del 6,5-7%. Solo 6,5-7%, ma chiaramente noi ricordandoci, neanche in 15 anni mettiamo a segno una crescita di quel tipo, eppure questa storia continua a rappresentare un problema, dottor Alfieri. Molto interessante sempre un'analisi su questo. Sì, no, assolutamente. Ci si dimentica che oggi come oggi ormai la Cina è probabilmente la prima economia al mondo, se a parità ovviamente di potere di acquisto, comunque è la seconda dopo gli Stati Uniti, tra breve sarà sicuramente la prima in ogni caso, quindi è impensabile che un'economia grande come più di quella americana possa continuare a crescere al 6-7%, bisogna farsene una ragione. L'importante, e mi sembra che gli elementi sul tavolo siano sotto questo profilo molto chiari, l'importante è che comunque le autorità cinesi guidino l'economia cinese verso una dimensione diversa, più trainata dai consumi piuttosto che dalla produzione dalle esportazioni, esatto. Allora, intanto la dirò come la dice Mauro Meazza la mattina con Alessandro Milan. Traffico! Cuore e denari. Il rischiatutto di Cuore Denari vi propone oggi, per investire informati, questo domandone: in che data questo mese le società del FTSE MIB del principale paniere di Piazza Affari staccano il dividendo, la cedola, e quante società lo fanno? Allora, mi accontento anche della prima risposta, se ce le date tutte e due proprio doppio premio, direi. Dottor Alfieri, JP Morgan Asset Management, tanti temi naturalmente all'ordine del giorno per ragionare un po' su come vanno i mercati azionari ed obbligazionari. A proposito di obbligazioni, anche in questo caso un po' BTP e bot traditori in Italia, perché da molto tempo a questa parte stanno sperimentando un rendimento sempre più contenuto, anzi in certe scadenze praticamente azzerato, in altre addirittura negativo. Allora, quali sono i segmenti, per dare qualche indicazione pratica ai nostri ascoltatori affezionati comunque alle obbligazioni governative, in quali segmenti del comparto obbligazionario possiamo trovare interessanti opportunità di rendimento? Dobbiamo rischiare molto andare proprio su quei paesi politicamente un po' fragili che per andare sul mercato devono riconoscere rendimenti più elevati per attirare gli investitori, oppure possiamo rimanere anche in aree un po' più come dire familiari a noi? Allora, per quanto riguarda gli investimenti obbligazionari, chiaramente si presenta oggi come oggi un serio problema. I rendimenti, come giustamente è stato evidenziato, sono bassissimi anche su quelle tipologie di investimenti, ad esempio le obbligazioni societarie di alto rating, vuol dire quelle di qualità. Anche in questo caso abbiamo visto che anche qui i rendimenti sono di poco sopra lo zero virgola. Sì, ci sono degli investimenti in obbligazioni che possono avere un rendimento più interessante. Ad esempio penso alle cosiddette obbligazioni high yield, cioè quelle obbligazioni emesse da società che hanno un rating più basso, però come ho più volte detto andiamo verso soluzioni di investimento più complesse, difficili, che non possono essere affrontate dal risparmiatore fai da te. Quindi io suggerisco sempre di guardare ad esempio ai fondi obbligazionari, in questo caso non governativi, che hanno all'interno una ampia diversificazione verso tanti tipi di obbligazioni, high yield europei, high yield americani, corporate magari di basso rendimento, di alto rendimento, di rating più basso, ad esempio anche paesi emergenti, ma sempre filtrati dalla mano competente del professionista. È una fase molto delicata, soprattutto in Italia, dove i portafogli in media hanno circa il 70%, se facciamo un portafoglio teorico delle famiglie italiane, il 70% è investito in obbligazioni in media, quindi l'investitore italiano è più propenso a guardare sempre all'obbligazione come soluzione di investimento. Ecco, in questo momento mi rendo conto che è difficile, bisogna però trovare una soluzione non attraverso il fa da te. È un mercato troppo difficile per professionisti, quindi rivolgetevi al vostro consulente, stressatelo di domande fino all'inverosimile. Guardate ovviamente ad soluzioni diversificate. Non c'è in questo momento una soluzione come era un tempo il titolo di Stato, lo compravo, me lo tenevo lì, mi davo un rendimento e sapevo di avere a scadenza i 100 euro o le 100 lire. Non è più questo purtroppo lo scenario plausibile, bisogna guardare investimenti diversificati anche nell'ambito delle obbligazioni, ma questo può essere fatto solo attraverso prodotti adeguati. Senta, invece a proposito di flussi cedolari e dividendi, adesso spero di non metterla in difficoltà con questa domanda perché non le avevo neanche chiesto in via preventiva magari di presentarci così un osservatorio dettagliato, ma sono tante le società, voi che state osservando anche le trimestrali in questo periodo, che riescono ancora a garantire una remunerazione adeguata ai propri azionisti. Se fosse anche questa una linea guida per scegliere come investire nel mercato azionario, magari una persona che diversifica bene dice: mi faccio un giardinetto di titoli azionari tra le società che offrono ancora una buona cedola. Ma diciamo, è ancora che una politica di investimento adatta secondo lei? Diciamo che storicamente avere la costanza di investire e tenere nel medio-lungo termine le cosiddette utilities, cioè quelle società che hanno sempre offerto rendimenti dai propri dividendi abbastanza costanti nel tempo, visto anche il tipo di attività che fanno, non so, ad esempio reti elettriche, per dirne una, comunque un business molto chiaro, molto semplice, sicuramente sono state anche una interessante soluzione. Riteniamo infatti che anche in questo scenario di mercati più complicati sotto il profilo dell'investimento azionario, ad esempio le azioni che offrono dividendi interessanti e costanti nel tempo siano un'interessante opportunità. Resta il fatto che comunque a nostro modo è sempre importante diversificare anche all'interno di un paniere di titoli di questo genere, e fare la selezione è molto difficile. Rivolgiamoci a un consulente finanziario o a chi per lui per trovare ovviamente il prodotto adatto. Allora, vediamo un po' come hanno risposto i nostri amici al nostro domandone. Dove vuoi andare, Nicoletta, per sentire? Sì, cominciamo con accendere il microfono, con magari accendere il microfono. Sì, direi che andiamo da Guiscardo, sì, che ci chiama da Milano con questo bel nome. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il FTSE MIB, il paniere principale di Piazza Affari, Guiscardo. Stacca le cedole il 26 maggio. Credo. Devo già dirle, proprio interrogando. Esatto, Guiscardo, non ci siamo. Noi apprezziamo la buona volontà, però la data è lì vicino, ma non è quella. Sentiamo Roberto da Latina. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Allora, gran parte delle società del FTSE MIB staccano il dividendo quest'anno, fra poco? Sì, allora, è il 23 maggio. Bene. e le aziende dovrebbero essere tra i 18 e i 20 aziende del 2030. Sì, allora l'applauso è meritato a metà perché sono 21 su 40. Vabbè, dai, però 18, Roberto 20. Adesso gli ho fatto fare anche questo conteggio al volo, dovevano cercare tutta la lista, quindi Roberto i libri glieli mandiamo senz'altro. Va bene, però anche a Guiscardo, dai. Glielo vuoi mandare? Ma sì, mandiamo quello del metabolismo però, hai detto Grazie. Anche a Guisco. Ah, Nicoletta sempre troppo buona. Lorenzo Alfieri, ci rivediamo in un prossimo appuntamento, immagino fra un mesetto. Saremo proprio a ridosso magari del referendum del Regno Unito, per cui sì che li balleremo e racconteremo tante cose interessanti sulla sterlina, le valute e tutto quel movimento che creerà questo fatto. Speriamo che non ci turbi quanto ha fatto la Grecia l'anno scorso prima di lasciare spazio alla Cina. Grazie, grazie dottor Alfieri, grazie a presto. Grazie a voi e buongiorno. Grazie anche a Paolo che non stiamo salutando da qualche giorno. Mai, neanche Marco Lombardo, Laura Vanossi, è vero. Ciao. Ci ho pensato ieri, a domani.